Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ne abbiamo due e due cose sanno fare: flettersi e stendersi, quello che basta per camminare, saltare, correre, salire, scendere, stenderci, rimetterci all'impiedi, inginocchiarci. E per fortuna che sono due, non che uno possa fare da riserva all'altro, ma come si dice, in due si sopporta meglio, anche perché in una superficie di pochi centimetri quadrati pesa quasi tutto il peso del corpo. Qua in studio con me il professor Roberto D'Anchise, primario ortopedica all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Professore, si flettono e si tendono. Partiamo da questi due movimenti per fare un piccolo test. Fanno ancora di più, nel senso che si ruotano, che è un elemento importante. Se noi cerchiamo di mettere il piede verso l'esterno, questo ruota principalmente a livello del ginocchio, anche a livello dell'anca. Però questo per dire che è un'articolazione estremamente complicata, è un'articolazione, come faccio sempre notare, fatta male, nel senso che ha una superficie piatta, che è quella della tibia, della parte alta della tibia, su cui si articolano due sfere, quindi concettualmente non potrebbe stare insieme. Sta insieme esclusivamente per la presenza dei legamenti, della capsula articolare e dei menischi. Quindi, come sempre, le cose molto complicate fanno delle cose perfette, però è molto facile che vadano incontro a delle problematiche, come quando si ha tutto quello che è portato all'eccesso un po' nella nostra costruzione. 800 24 0024, come sempre potete seguirci su Facebook e su Twitter. Si flettono, si distendono e ruotano. Benissimo. Proviamo da questi tre movimenti, professor D'Anchise, a capire se stanno bene. Allora, vediamo un po'. Diciamo che l'elemento di maggior riferimento è la flessione. Sì. Perché se noi consideriamo un ginocchio esteso, vediamo che la rotula, che è l'osso che sta davanti, tende a muoversi liberamente. Nel momento in cui noi lo flettiamo, la rotula va a incastrarsi nella sua sede, definiamola così. Quando si incastra nella sua sede, noi abbiamo le superfici articolari che sono appiccicate le une sulle altre. Vicine vicine. Vicine vicine. E quindi questo può dar fastidio a lungo andare, sia nelle persone sane che a maggior ragione nelle persone che hanno un piccolo o grande acciacco. Problema prevalentemente a carico della cartilagine. Quindi è più quello che l'estensione o che la rotazione. Quindi l'elemento importante a cui poter fare riferimento è come ci si sta con le ginocchia flesse. Camminare, nuotare, sciare. Molto spesso il ginocchio presenta il conto dopo che l'abbiamo fatto un po' muovere, l'abbiamo messo un po' a lavorare. A volte gli stimoli lo irritano. Abbiamo parlato del ginocchio fermo, adesso vediamo un po' come si comporta dopo che l'abbiamo fatto un po' muovere. Ma diciamo che se il ginocchio non ha una problematica, qualunque che essa sia, può dare un po' di fastidio dopo una certa sollecitazione. Però devo dire la verità che alla fin fine ritorna normale. Dobbiamo fare attenzione, per esempio, nelle discese. Se noi andiamo in montagna, spesso in salita non abbiamo problemi, ma in discesa, quando dobbiamo contrastare anche la forza di gravità, il ginocchio lavora molto di più. E ogni tanto, per esempio, io vedo pazienti che stanno bene, ma che hanno fatto la lunga discesa facendo trekking, non so, qualcosa di simile, che hanno una reazione negativa, cioè si infiamma l'articolazione, ma per la notevole sollecitazione che hanno subito. Però se non c'è un problema di fondo, il ginocchio sopporta tutto. 800 24 0024, raccogliete gli stimoli, i suggerimenti del professor D'Anchise, facciamo una specie di test di valutazione del nostro ginocchio. Abbiamo detto quando siamo fermi, con il ginocchio piegato, e un altro indizio potrebbe essere invece il sollecitare il nostro ginocchio dopo una discesa. Questo sì. Se il ginocchio si lamenta, 800 24 0024, professore? Il ginocchio, se si lamenta, come dicevo prima, può voler dire che c'è una iniziale sofferenza a carico della cartilagine, della rotula. La cartilagine, che è il tessuto che riveste l'articolazione e rende le superfici estremamente congruenti e consente lo scivolamento senza attrito tra una parte e l'altra dell'articolazione, è un tessuto estremamente delicato. Se sollecitato malamente, in effetti può andare incontro a una sofferenza che può essere un semplice rammollimento che poi può rientrare o può evolvere anche con dei danni, con delle perdite di sostanza. Facciamo una piccola parentesi a proposito, abbiamo sentito Jo Cajue, si riferisce anche a sciare. Pronto soccorso? Se... Questo è un argomento che è molto, che è io d'attualità. Amo molto, è d'attualità, nel senso che quello a cui tengo è che se noi abbiamo, e purtroppo capita frequentemente, dei problemi, delle distorsioni sciando per esempio, e se ci troviamo in montagna, veniamo visti, spesso le indicazioni che vengono date da chi vede immediatamente il paziente possono non essere le stesse che darà il medico che lo seguirà a casa. Quindi come è stato aggraziato? Il suggerimento è quello non di aspettare quelle 2 o 3 settimane come è stato indicato, ma di farsi vedere subito dal medico che penserete vi seguirà, perché così lui potrà mantenere quello che è la sua abitudine di lavoro e quindi darvi consigli secondo le sue esperienze. E chi ha un ginocchio un po' malandato può godersi l'ultima neve magari mettendosi un tutore, un sostegno e sciare ugualmente? No, io credo che il tutore abbia veramente uno spazio relativo nelle patologie rotule, e attenzione che i tutori, io dico sempre che un grosso aiuto psicologico che anche condiziona. Se noi cominciamo a utilizzare spesso un tutore, è un po' come la coperta di Linus, non sappiamo star senza. Mi sprofondai coscienziosamente in tutte e 26 le lettere e arrivai alla conclusione che l'unica malattia da cui ero esente era il ginocchio della lavandaia. Questa scoperta al primo momento mi lasciò piuttosto deluso, mi parve quasi un affronto. Perché mai non avevo il ginocchio della lavandaia? Perché questa invidiosa eccezione? Ma dopo un po', grazie a Dio, prevalsero sentimenti meno avidi. Ebbi così la possibilità di riflettere che avevo tutte le altre malattie conosciute dalla farmacologia. E così mi sentii meno egoista e decisi di fare a meno del ginocchio della lavandaia. Ma è molto probabile che Jerome, essendo scrittore, soffrisse di ginocchio da scrivania, che si aggiunge appunto a quello della lavandaia e del corridore. La causa proprio la mancanza di movimento frequente in chi sta seduto ore e ore alla scrivania davanti a un PC. Insomma, capita alle nostre ginocchia un po' quello che capita ai nostri occhi quando davanti al PC evitiamo di ammiccare, e sotto la scrivania le nostre ginocchia stanno ferme e avvertiamo, e questo è una sorta di test che vi suggerisco, ma voglio sentire se il professor D'Anchisa è d'accordo. Innanzitutto credo che Jerome non lavasse le lenzuola a mano, quindi in ginocchio, e quindi non ce l'aveva. Poco probabilmente potesse avere il ginocchio della lavandaia. Ripeto quello che dicevo prima, chi rimane a lungo col ginocchio flesso sicuramente può avere qualche problematica se non fa non ha alcuni accorgimenti. Il primo è quello di frequentemente o alzarsi dalla scrivania o estendere le ginocchia. Questo vale per esempio anche nei nostri viaggi aerei. Per esempio, se si fanno dei lunghi viaggi aerei, si rimane nella posizione flessa, che ha, come voi sapete, 2 problemi: 1 per quanto riguarda il ginocchio e 2 per quanto riguarda i problemi vascolari per rallentamento della circolazione. Quindi ricordarsi di non rimanere a lungo con le ginocchia flessa, basta estenderle ogni tanto e non ci sono problemi. 800 24 00 24 se anche voi magari ci state seguendo proprio dalla scrivania, o anche persone che devono stare ore e ore alla guida, anche per loro è certo. Un consiglio. Sì, diciamo che la guida è già al ginocchio è già un po' più esteso, sì. E questo è tollerabile. Alessandro ci chiama dalla provincia di Roma e Davide da Venezia. Alessandro, buongiorno, benvenuto. Sì, grazie, buongiorno a voi. Buongiorno. Senta, io pratico ciclismo mountain bike da circa 15 anni. Da un anno a questa parte soffro di uno scricchiolio al ginocchio. Praticamente quando faccio il piegamento totale a terra e mi rialzo, le ginocchia mi scricchiolano. ma non ho dolore. Sì. Ecco, quindi volevo un po' sapere come regolarmi. Faccia finta di niente, faccia finta di niente. Gli scricchiolii senza dolore non devono preoccupare minimamente. Quindi lei perché l'ortopedico mi ha prescritto delle iniezioni con l'acido. Eccolo qua. Eccolo qua. Allora, grazie. Però io ho evitato. Lei non ha fatto farle. Benissimo. Allora, Alessandro apre una parentesi importante. E che è questa, io vorrei capirci chiaro, un po' bene, perché spesso quando abbiamo il ginocchio che ci fa male o ci è capitato qualche cosa, ci viene suggerito proprio questa sorta di infiltrazione, si chiama così, queste iniezioni. Allora, questo è un argomento molto importante. Le infiltrazioni, che sono per lo più quelle di acido ialuronico, adesso ci sono anche delle infiltrazioni che prevedono l'utilizzo del sangue trattato in un certo modo, possono avere un effetto analgesico, nessuna possibilità di ricostruzione della cartilagine. Ogni tanto si sente che queste infiltrazioni possono ridare tono alla cartilagine, lo abbiamo sperato, specialmente quando si parla di questo del trattamento del sangue, ma abbiamo visto che possono avere, non è detto che ce l'abbiano, un effetto analgesico, cioè terminato il loro effetto il ginocchio ritorna nella situazione precedente. Ma elemento importante, se non si ha male non ha assolutamente senso fare nulla se non ci sono reali problemi. I rumori che non fanno male si lasciano. Davide da Venezia, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre. Bravo Davide. Poi lei è simpaticissima, ha una voce che prende proprio la tira le... Ma... Che spottone, Davide, la invito tutti i giorni. Questo l'ho sempre detto anch'io. Bene, condividiamolo. Allora. Il mio problema è questo, cioè, io ho avuto la polio da ragazzino dopo 8 mesi, no? È una gamba più piccola dell'altra, ma comunque c'è cioè, non grande validità, insomma, con una validità del 85% avrei io, no? E quando andavo in bicicletta mi ricordo che ho dovuto mollare perché mi si gonfiava sempre la parte sinistra, quindi io praticamente sforzavo la destra per superare alla sinistra. Certo. Però andavo veloce perché mi sono affrontato, pensi lei, con uno che era a posto fisicamente e pensi che la mia competizione fu quella di provare a vedere se rendevano. Riuscì a batterlo anche oltretutto, però per non andare a sforzare di più certo, però, lei doveva deve compensare, quindi sforza di più, sì. E il ginocchio le si gonfiava. Sì, e allora io mollai perché certamente vedevo che mi andavo a casa, mi si diventava un ginocchio enormemente gonfio, dissi meglio che lasciare. Sì. Faccio le cose più ecco, leggere di quelle perché il gonfiore è sempre un segnale, Davide, che ci mette un pochino in allerta. Davide, questa è la domanda? Esatto. Dopo un'altra cosa, oltre a quello che ho detto, e allora dopo ho imparato un'altra cosa di fare un esercizio tipo usare le dita sul ginocchio, no? Quattro dita. E la rotola buttarla a sinistra e vedere se va bene a sinistra. Dopo la rotola su in alto e a destra. E dicono che questi tre movimenti indicano che la rotola servono. Praticamente fa degli esercizi di mobilizzazione della rotola. Sì, sono degli esercizi che possono essere utili, sono molto utili specialmente dopo aver fatto un intervento chirurgico, perché si possono creare delle aderenze e quindi i fisioterapisti cercano di mobilizzare la rotula per consentire un più rapido recupero. Per quanto riguarda il discorso del gonfiore, ecco, questo è un elemento importante. Il gonfiore di per sé non è una patologia, cioè è il sintomo di qualche cosa che non funziona nell'articolazione. Qualcosa non funziona nell'articolazione, la nostra membrana che riveste l'articolazione e che produce il liquido che consente una lubrificazione articolare si infiamma e produce liquido. Quindi non è il gonfiore la malattia, ma è l'espressione di una patologia di base. E andiamo a Marzia che ci chiama da Bergamo, 800 24 00 24. Buongiorno a lei e benvenuta. Buongiorno, anch'io naturalmente l'ascolto sempre, mi organizzo in casa tra aspirapolvere e lo spengo per riuscire a ascoltarmi. Grazie, mi fa piacere Marzia, mi dica. Io cammino volentieri e anche vado in montagna. Quando sono con la salita non ci sono problemi, per la discesa preferisco così distinto saltellare e correre giù da un passo da una gamba all'altra distribuendo il peso, perché mi sembra di far meno fatica. Ho 59 anni, peso 50 kg, sono leggera, leggerissima. Leggera. Però ecco, mio marito dice: ma cosa corri sempre in coggiolo? Ma i mariti, sa che, guardi, facciamo ai mariti, applichiamo la regola del ginocchio che scricchiola, no? Gli scricchioli e i brontolini non si stanno. Come non si sempre sentono. Il marito ha perfettamente ragione. No, ecco, voglio dire che non è ragionevole quello che lei fa, anche perché lei associa alla discesa, come dicevo all'inizio, quindi alla fatica dell'articolazione, anche il saltello, che comporta un momento di sovraccarico maggiore dell'articolazione. L'unico consiglio che io posso darle è quello di usare dei bastoncini. Quando si va in montagna si usano dei bastoncini, un po' si riduce il carico sulle articolazioni e questo potrebbe migliorare la sua situazione. Camminare, nuotare. E a proposito di movimento, sappiamo che rinforzare la muscolatura è fondamentale per il benessere del ginocchio, professore, ma ci stiamo rendendo conto che non tutte le attività aiutano il ginocchio, in alcuni casi lo stressano. Sì, diciamo che la muscolatura è fondamentale. Ci sono per esempio delle patologie a carico della rotula, delle rotule instabili, così, che migliorano molto con il recupero del tono muscolare. Sì. E poi se per qualche motivo noi magari rimaniamo a letto qualche giorno, per esempio con l'influenza, come capita di questi tempi, si perde un po' di tono muscolare e può ricomparire la sintomatologia. Quindi specialmente chi ha qualche problema, la muscolatura deve allenarla frequentemente. Allenamento prevalentemente in scarico. Tutto quello che noi facciamo in carico, se fatto con buon senso, può essere fatto tranquillamente. Purtroppo spesso noi eccediamo, certo, nella corsa, nelle attività, e questo può creare delle problematiche. E a proposito di corsa, in linea con noi abbiamo Marco Marchei, direttore di Runner World. Ciao Marco. Buongiorno, buongiorno a voi. E insomma, è vero, la corsa non sempre è favorevole al nostro ginocchio, spesso la stressiamo, ma diamo qualche indicazione, perché sono tanti gli ascoltatori di Essere Benessere che amano correre, oppure iniziare, Marco, a correre. Per questo ci aiuti, ci dai qualche trucco per non gravare troppo sulle ginocchia, magari un passo giusto, una corsa rispettosa certo, dell'articolazione? Sì. Se stiamo parlando, se non andiamo su attività estreme come quelle della signora che camminando insomma viene giù in discesa da pendii piuttosto scoscesi, e parliamo di corsa normale e di gente, quindi di ascoltatori che vogliono praticare la corsa per divertimento, o meglio, se vogliamo dirla, per la salute, e quindi non per gli atleti veri, cioè quelli per cui la corsa riveste un ruolo molto importante nella giornata o nella vita, direi che bastano veramente pochi consigli. E cioè, considerando che appunto che in termini di forza muscolare, di potenziamento minimo, parliamo di gente che è ai limiti della sedentarietà e quindi non ha una struttura, come dire, una carrozzeria in grado spesso di sostenere il tutto, vale la pena, correndo, di non esagerare con passi troppo lunghi, per esempio. Questo è uno dei pochi piccoli grandi consigli che noi diamo proprio a chi comincia a correre. Quando si incomincia si è generalmente piuttosto generosi, si parte come si dice, a strombattuto, a strombattuto, e questo sovraccarica un po' muscoli e articolazioni, muscoli e tessuti di vario genere, ma soprattutto le articolazioni, in particolare quella del ginocchio. Per quella della caviglia si può ovviare con un buon paio di scarpe ammortizzate. Per il ginocchio può valer la pena di avere una cadenza, cioè una frequenza di corsa ottimale, che noi generalmente siamo molto grossolani nell'insieme, ma fissiamo sui 160 passi al minuto, quindi 80 passi se uno volesse contarli, giusto per non fare confusione, 80 passi col piede destro o 80 passi col piede sinistro, in maniera poi da raddoppiare. Questo mette in condizione di avere una cadenza ottimale, di non avere passi troppo lunghi, che in qualche maniera, per il tipo di angolazione dei segmenti articolari, non vada a sovraccaricare troppo il ginocchio. Il passo più o meno può essere lungo, chiunque può misurarlo, 80 centimetri, un metro in questo caso. Se diventasse un pochino più lungo creerebbe qualche problema. Quindi, per intenderci, meglio più di 160 passi, se ne fai meno vuol dire che tendenzialmente fai passi un pochino più lunghi del normale. Devi accorciare un po' il passo, perché... Sì. passetto dopo passetto. Posso farle io una domanda? Mi ricordo che si parlava qualche tempo fa di chi cominciare a fare a camminare velocemente e correre. Camminare velocemente e correre, questo dicono che sia un buon allenamento. Lei me lo conferma? Anzi, c'è un allenatore, Jeff Galloway, che negli Stati Uniti, che ha fondato la sua fortuna, è diventato uno dei più noti su questo. Lui riesce a far correre alternando la corsa al passo o anche la maratona, addirittura ha portato molti principianti a correre barra camminare la maratona, come dire, cancellando un po' di un vecchio tabù, anche soprattutto italiano, no? Se qualcuno normalmente in auto ti chiede un'indicazione a un runner, si scusa perché lo costringe a fermarsi. Insomma, a volte non si può tranquillamente, anzi, per chi comincia l'alternanza tra la corsa e il passo è ottimale. Runner's World, noi, la nostra rivista, da anni propone una tabella, sempre quella, qualche volta ci rimproverano di essere ripetitivi, che alterna, appunto, riesce a portare a correre mezz'ora nell'arco di un mese, andando, muovendosi a giorni alterni, proprio alternando la corsa al passo, di un minuto di corso, un minuto di passo, e per 10 volte la prima volta, quindi è una cosa che possono veramente fare tutti. Grazie, questa è la ricetta per correre in salute. Grazie a Marco Marchei, direttore di Runner World. Buon lavoro, insomma, le ginocchia sono fondamentali. Io a loro attribuivo solo due movimenti, invece il professor D'Anchise, che naturalmente un po' di parte ne ha subito sottolineato un terzo. Ma noi di ginocchia vogliamo parlare anche sotto un'altra luce, da un altro punto, angolatura. Infatti c'è un detto: mi fai venire il latte alle ginocchia, ed è un che si sposa bene con anche questa articolazione, che spesso si lamenta, a volte un po' noiosa, seccante, a volte duole, cede, si blocca, scricchiola. In linea con noi abbiamo il dottor Francesco Aquilar. Buongiorno dottore. Buongiorno e buongiorno agli ospiti e agli ascoltatori. Psicologo, psicoterapeuta cognitivo, esperto del nostro Daily Lab, che vi invito a consultare ogni giorno. Dottor Aquilar, prima dei mercati, dicevo, è un detto che si sposa, sembra calato perfettamente per il ginocchio, quello mi fai venire il latte alle ginocchia. Noi di solito lo usiamo per dire è una persona noiosa, che mi secca, che mi toglie un po' il fiato. Dottore. Certo, quando ci fanno venire il latte alle ginocchia sono persone o cose che ci annoiano, che ci seccano oltre misura, e allora i nostri ascoltatori potrebbero telefonarci per raccontare chi o che cosa dà loro questa sensazione. Sarà la solita suocera? Sarà la campagna che sarà appena finita? Sarà il conoscente appiccicaticcio che ci insegue? Oppure possiamo sentirci venire il latte alle ginocchia per designare fastidio, stanchezza, potenza. Può essere il capo ufficio? Possono essere le stesse discussioni in famiglia o sul lavoro, o eventi sociali obbligatori da cui è difficile scappar via? Allora possono raccontarci la loro esperienza e noi proveremo a dare un'interpretazione. E già che ci siamo, gli ascoltatori potrebbero anche parlarci di quando ci mettiamo in ginocchio da te, su cui abbiamo cominciato la puntata, cioè sulla dipendenza affettiva. 800 24 00 24. Ringraziamo il dottor Aquilar, che rimane all'ascolto, pronto a raccogliere i vostri racconti. Lorenzo ci scrive da Facebook: quello che gli fa venire il latte alle ginocchia, la dabbenaggine, la stupidità, l'imbecillità di talune persone, coloro che creano situazioni inutili, noiose per l'appunto, prive di un minimo di logica. Essere e benessere. E noi siamo tornati qua in studio oggi, il professor Roberto D'Anchise. Professore, parliamo di questa struttura così complicata che sembra non possa stare insieme. In realtà poi forse era un errore, poi hanno detto: adesso cosa faccio con questo pasticcio? Mettiamoci una pezza, e quindi legamenti. E parliamo delle strutture del ginocchio, che per traumi anche banali e per l'effetto degli anni possono lesionarsi e quindi metterci in difficoltà. Cerchiamo di capire cosa si può fare e come si può risolvere. Professor D'Anchise, lesione uguale dolore? No, lesione uguale rottura. Ecco, questo è un elemento importante. Molte volte, quando si fanno degli accertamenti di cui possiamo eventualmente parlare in presenza di una patologia del ginocchio, il paziente viene da me tutto contento perché dice: ho lesionato il crociato, sono contento, quindi non è una cosa grave. No, lesione vuol dire rottura. Quindi sì, quando si parla di lesione del menisco, quando si parla di lesione del crociato anteriore, vuol dire che il crociato è rotto, è o che il menisco è rotto. A questo proposito si parlava, volevo dire due parole sugli accertamenti. La TAC non serve per quanto riguarda la patologia del ginocchio. L'ecografia serve raramente, ma solo per le parti molli, quando si ha una borsite, che è il rigonfiamento di un tessuto che sta al davanti della rotula. Quindi l'ecografia e la TAC devono essere un po' eliminati. L'elemento importante è la radiografia e la risonanza. La risonanza può mettere in evidenza, questo è qualcosa che ci ha insegnato la risonanza, una sofferenza, per esempio dopo un trauma, del tessuto che sta dentro all'osso, a livello della parte terminale del ginocchio o della parte terminale della tibia. È un tessuto spongioso che per un trauma può andare incontro a quello che viene definito un edema, ed è quello può essere la causa del dolore, e quindi teniamolo presente, non è nulla di grave, è una patologia che tende a regredire a meno che non ci siano patologie diverse più importanti. Noi come passiamo a tradurlo? Come se l'osso avesse un livido? È come se avesse una microfratturina interna, definiamola così. Valeria da Teramo e poi Francesca da Genova. Buongiorno Valeria. Buongiorno a tutti, vi espongo brevemente il mio problema. Qualche mese fa ho lavorato come modella per praticamente un marchio di calzature, e quindi ero costretta a stare con delle scarpe non comode, anche molto alte, anche magari con altezze differenti, 10 cm, 14 cm, 6 cm, 8 cm. Nei momenti in cui non lavoravo stavo spesso per 2 ore di seguito con le gambe accavallate. Alla fine di questo lavoro il mio ginocchio è iniziato un po', è come se l'avessi sentito un po' spostarsi da dietro, e poi a mano a mano comunque il dolore aumentava. Non la sentiamo molto bene, Valeria, mi scusi se la interrompo, non la sentiamo molto bene, ma abbiamo capito. Valeria fa la modella e indossa calzature, il sogno di tutte le donne, di tutti i tipi, con tacchi 12, 8, 10, e io credo alla che fine paga il conto. Io credo che rientri un po' in quelle situazioni di sollecitazione anomala che può far soffrire temporaneamente l'articolazione. Ecco, un elemento importante è che esiste una patologia che riguarda la rotula. Se la rotula non è perfettamente centrata nella sua sede, è un po' come la convergenza delle ruote dell'automobile. Se noi non la correggiamo, se abbiamo una convergenza anomala, questa tende un pochino a consumarsi. Quindi qualche volta, se la rotula non è centrata e non facciamo della ginnastica per cercare di mantenerla nella sua posizione corretta, facilmente con sollecitazioni anomale può andare incontro a una sofferenza. Come facciamo a capire se la nostra rotula è strabica? A parte che si può vedere se la rotula è strabica, però diciamo che la risonanza e alcune radiografie particolari ci consentono di dire come è posizionata la rotula. È chiaro che non dobbiamo farla tutto come accertamento, certo, è in conseguenza di una sofferenza. Vi ricordo, continuate a scrivermi al 349-238-6666, potete farlo anche su Facebook, seguiteci su Twitter, intervenite all'800-24-0024, parliamo della salute del nostro ginocchio, ma parliamo anche delle cose che ci fanno venire il latte alle ginocchia. Raccogliamo naturalmente i vostri stimoli, i vostri commenti, e andiamo a Francesca che ci chiama da Genova. Buongiorno Francesca, benvenuta. Buongiorno, grazie. Approfittavo del vostro... della vostra bellissima trasmissione per informarmi per le cose che mi interessano per la mia salute. Ho avuto tanti anni fa sono caduta con gli sci, e probabilmente allora non c'erano le risonanze, ma poi mi sono accorta di aver avuto poi una lesione e ho il crociato rotto, il legamento rotto. Sì, sì. Ecco. Qual è la domanda? Ecco, poi ho... Che subito il professor D'Anchisa interviene. Francesca, le devo chiedere di andare alla domanda perché abbiamo tantissimi ascoltatori con cui vogliamo dare voce. Ecco, volevo sapere se, pur avendo poi dopo avuto un intervento per il menisco, posso tenermi questo crociato rotto o devo affrontare a tutti i costi l'intervento con la relativa poi fisioterapia? Allora, mi pare di capire che siano passati tanti anni. Allora, diciamo questo, la rottura del crociato anteriore consente una vita normale come lei ha fatto, ma può dare come problematica dei cedimenti nei cambi di direzione o nei salti. Ora, se questa sintomatologia non si è presentata in tutti questi anni, io direi di tenere il suo ginocchio così e di mantenerlo allenato. Purtroppo, avendo anche tolto un menisco, è possibile che nel tempo la cartilagine un po' soffra e che ci possa essere un'artrosi, che vuol dire usura della cartilagine. Muoviti, muoviti! E allora muoviti, muoviti! Comincia a muoverti, muoviti! E allora muoviti, muoviti! Oh yeah! Occhio alle ginocchia quando vi allenate! In linea con noi abbiamo il professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari sportive alla Facoltà di Scienze Motorie dell'Università Cattolica di Milano e autore di un libro di cui abbiamo parlato spesso. Professor Tirelli, buongiorno! Buongiorno Nicoletto, che buongiorno! Che si intitola appunto Tecniche Complementari Sportive. Sì, buongiorno Nicoletto, buongiorno al professor D'Anchise e a tutti gli ascoltatori. Sì, parlando di ginocchia, credo che sia importante spesso anche ricordare a queste articolazioni come ausilio per altri esercizi, cioè per esempio molti praticanti di sport a volte chiedono sia per gli squat sia per la pratica degli addominali che tipo di posizione delle ginocchia dovrebbero mantenere. E allora, per esempio, sappiamo che nell'ambito dell'esercizio per gli addominali dobbiamo cercare di isolare un muscolo che si chiama iliopsoas. È un nome un che po'... Che nome? Come si chiama? Psoas, lo chiamiamo psoas. È un muscolo che ha una sua funzione principale, cioè di avvicinare la coscia al tronco, al busto. In qualche modo ci avvicina alle ginocchia verso il petto. Sì. Solo che il problema è che quando questo muscolo diventa troppo potente, troppo forte, può essere concausa di forti mal di schiena, di lombalgie generali. Allora, noi per fare gli addominali il consiglio è sempre quello di cercare di isolarlo. In che modo? Togliamogli la funzione della flessione, quindi è sempre meglio in posizione supina, quindi a pancia in su, mettere le nostre gambe sopra ad una sedia, appoggiando quindi le gambe, quindi le ginocchia risultano flesse e col tronco vado verso le ginocchia. Ho la possibilità allora di tonificare bene gli addominali utilizzando bene le ginocchia. E quindi queste ginocchia anche nel caso dei famosi squat. Molta gente chiede: ma qual è la flessione ideale? Allora, il consiglio generalmente è quello di non andare oltre i 30 gradi, 40 gradi dello squat, cioè della flessione, diciamo, del ginocchio. Quando, per esempio, vediamo in palestra qualcuno che prende un bilanciere, lo mette sulle spalle e scende piano piano. Allora, in quel caso, il consiglio è, onde sovraccaricare eccessivamente questo ginocchio, di scendere per una 30-35 gradi, ma non andare mai, per esempio, su una posizione di circa 90 gradi, per esempio, che sarebbe estremamente negativo per l'articolazione. Professor D'Anchise, professor Tirelli, mi scusi, fermiamoci qui perché abbiamo le informazioni sul traffico e poi ritorniamo subito dopo. Mi dice anche qualcosa sul salto della corda, che stanno arrivando anche messaggi, perché certo, ritorna il salto della corda. Essere e benessere. Le ginocchia fanno la differenza sempre, non solo per dare bellezza e per slanciare la gamba, ma anche la posizione delle nostre ginocchia mentre ci alleniamo. In linea con noi abbiamo il professor Tirelli. Professore. Sì, per esempio l'utilizzo della corda, che adesso va di nuovo, fortunatamente, chiamiamola così, di moda, ma è un ottimo strumento, un ottimo ausilio per migliorare sia la nostra resistenza alla fatica, quindi migliorare la forza delle ginocchia, delle cosce e quant'altro, ma anche per migliorare quella che si chiama propriocettività, questa capacità di sentire il nostro corpo nello spazio. Sì. Il consiglio in questo caso è di evitare di fare i salti con ginocchia, coscia e gambe troppo rigide. Cioè, è importantissimo ammortizzare, deve essere un lavoro molto soft, molto una frequenza, diciamo un ritmo elevato, ma senza mantenere troppo contratti i glutei, le ginocchia, quindi le cosce. Sì, insomma morbidi, professor Tirelli. Come, scusa? Morbidi. Elastici. Morbidi, fluidi, dinamici. Questo serve tantissimo, altrimenti andremo a sovraccaricare ad ogni balzo eccessivamente il ginocchio. Tra l'altro, una cosa importante da ricordare è che per preservare queste ginocchia anche a casa potremmo ogni tanto metterci con i nostri elastici, seduti davanti per esempio ad una porta, allacciare ad un'estremità l'elastico alla maniglia, mentre all'altra l'allacceremo alla nostra caviglia. E quindi tirando verso il basso, in giù, miglioreremo la forza dei muscoli posteriori, gli ischiocrurali o flessori della gamba. Ma al contrario, se sono seduto sulla mia sedia, metterò l'estremità sempre alla caviglia e porterò l'altro lembo alla mia mano. E quindi tirerò verso l'alto la gamba e a quel punto migliorerò il quadricipite. Quindi sono agonisti e antagonisti, come nella medicina cinese c'è lo yin e lo yang. E quindi è sempre una questione sempre di funzionalità e di equilibrio. Mi viene in mente un'osservazione, specialmente in fase riabilitativa, molte volte, anche facendo della palestra, si usa la leg extension, che è quello strumento che fa rinforzare il quadricipite estendendo l'articolazione. Il suggerimento che volevo dare è di ricordarsi di non arrivare mai al massimo dell'estensione con dei pesi sulla caviglia, perché questo sovraccarica molto l'articolazione. Articolazione femorotule, non so se è d'accordo. Certo, infatti tra l'altro io personalmente nell'ambito della rieducazione motoria post intervento preferisco sempre resistenze che si adeguano all'organismo, quindi l'acqua, l'elastico e la leg extension la lascio un po', diciamo, nel tempo a venire, un po' più in là. Allora siete d'accordo, grazie professor Tirelli per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi. Professore, scusi, si fermi lì, che cosa le fa venire il latte alle ginocchia invece? Il latte alle ginocchia? Fa venire il latte alle ginocchia ogni qualvolta inventiamo delle scuse per non approcciarci nuovamente all'attività fisica motoria. Dobbiamo essere sinceri e dire che fa bene e dobbiamo darci una mossa. Non essere benessere, quello non fa venire il latte alle ginocchia. No, di certo. Grazie al professor Tirelli. Andrea, grazie, dalla provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, mio figlio ha 14 anni, ha subito una micro lesione al legamento crociato posteriore per l'attività sportiva. Volevo sapere nell'esperienza del professore se questo tipo di problema viene riassorbito completamente vista la giovane età oppure se può portare dei problemi. Allora, due osservazioni. La prima è che un ragazzo così giovane, se ha rotto il crociato posteriore, io credo che sia importante ricostruirlo, perché negli anni il ginocchio potrebbe lavorare male, anche se il crociato posteriore, a differenza dell'anteriore, non dà dei grossi problemi, ma può creare delle problematiche di cattivo lavoro dell'articolazione con un'usura. Quindi a 14 anni è giusto fare l'intervento, ma attenzione che questi interventi devono essere fatti al termine dell'accrescimento, perché si possono creare dei disturbi nella zona dove cresce l'osso e quindi ci possono essere delle problematiche di diversa lunghezza o di anomalia di asse. Quindi fare l'intervento se è rotto, poi bisogna vedere cosa vuol dire microlesione, e ricordarsi di farlo però quando la cartilagine e crescimento è chiuso. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Francesco Aquilar. Buongiorno dottor Aquilar. Eccoci. Abbiamo raccolto le scuse che sono arrivate al 349-238-6666, molti messaggi che raccontano che cosa fa venire il latte alle ginocchia. Tre tipologie, una sono le persone, una le situazioni e un'altra invece i progetti. Sì. Progetti che insomma hanno le gambe corte oppure che non stanno in piedi da soli. Queste sono un po', raccogliendole a grandi linee, gli stimoli che mi arrivano dagli ascoltatori. Il capo ufficio va forte, la suocera, anche alcuni figli che alcuni ascoltatori mi segnalano, e poi molte situazioni che possono in qualche modo seccarci, annoiarci. Dottor Aquilar. Noi possiamo provare a reagire a queste cose non essendo succubi del latte alle ginocchia, cioè possiamo reagire in qualche modo essendo attivi. E in realtà sono quattro passaggi. Al primo posto possiamo provare a modulare le nostre emozioni. Quando abbiamo questa emozione immediata, impulsiva, di fastidio, di noia, di essere seccati, possiamo sapere che possiamo cercare di modularla, di rimpicciolirla. Al secondo posto possiamo rapidamente ristrutturare i pensieri. In realtà molto spesso ci viene il latte alle ginocchia perché pensiamo che non dovremmo trovarci in quella situazione o che le persone non dovrebbero comportarsi così. In realtà ognuno si comporta come vuole e noi possiamo provare a interagire con questa persona per neutralizzarne gli effetti negativi. Il terzo passaggio è capire velocemente il punto di vista dell'altro. se noi non riusciamo a entrare nella mente dell'altra persona, non possiamo negoziare una soluzione soddisfacente, fosse anche la fuga. Che farebbe bene anche alle nostre ginocchia, perché se stiamo tanto tempo ad ascoltarlo. Certo, fa bene alle nostre ginocchia e ci libera del conoscente appiccicaticcio. E al quarto posto, avere padronanza del proprio comportamento, cioè tenere presente che tra lo stimolo noioso e la nostra azione possiamo decidere delle diverse strategie di condotta. Quindi con tranquillità e il latte dalle nostre ginocchia pian piano scorrerà via e ci risentiamo liberi e in grado di difenderci. Quindi in quattro passaggi si toglie il latte alle ginocchia. Direi di sì. Questa è la ricetta. Se vi viene spesso il latte alle ginocchia, quindi trasferitevi poi sulla nostra pagina del programma dove troverete i passaggi del dottor Aquilar. Grazie dottore, certamente, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Abbiamo tempo per andare a Potenza, professor D'Anchise, perché c'è Marco che ci aspetta. Buongiorno Marco, benvenuto. Sì, buongiorno a voi, buongiorno professore. Senta, avevo una domanda appunto per il professore. Volevo chiedere in che modo poter preservare al massimo una cartilagine del ginocchio ormai insomma deteriorata, con il condilo femorale che ormai è già in vista, è un ginocchio già trattato. Io sono ciclista e ho 38 anni e insomma è un ginocchio veramente malandato. Ahimè, l'unico suggerimento che posso darle è buonsenso, cioè la cartilagine persa, usurata, quindi un'artrosi, non può essere modificata. Quindi il buonsenso vuol dire utilizzare questa articolazione senza sovraccaricarla troppo. Il buonsenso è quello che salva comunque le cartilagini del nostro ginocchio sempre? Ragionevolmente sì, questo sì, diciamo facciamo riferimento alle attività sportive prevalentemente, quindi tutte le attività sportive vanno bene, ma attenzione che sovraccarico, specialmente tipo la corsa o attività che richiedono l'utilizzo dell'articolazione, deve essere fatta con buon senso. Ringraziamo il professor D'Anchise per essere stato con noi, grazie a voi che siete intervenuti, mi avete scritto, potete come sempre seguirci anche sulla nostra pagina, c'è Carmelo Lauricelli in regia la parte tecnica e Laura Vanossi come sempre in redazione. Io vi saluto e noi ci sentiamo domani forse, a domani comunque. Essere e benessere.